sale la tensione in vista del funerale del ragazzo ucciso sabato ad Atene in un conflitto a fuoco con polizia. Il funerale è previsto alle 14 ore italiane al cimitero di Paleofaliro, alla periferia della città. L'altro appuntamento importante e decisivo è lo sciopero generale previsto per domani, un test per il governo Karamanlis che ha solo un voto di maggioranza e che potrebbe quindi veder vacillare la fiducia in Parlamento. La Grecia è l'anello debole di Eurozona, ecco perché le tensioni sociali esplose sono importanti per capire quanto i governi debbano intervenire per sostenere nei confronti di questa grave crisi che sta entrando nell'economia reale. Vittorio D'Arold, GR24, Il Sole 24 Ore, Atene.